capito. No, noi non in quello, quello più avanti, il Lido, il Lido Punta Bianca. Ah, Lido Punta Bianca, non lì non sono mai andato. Lì non ci sono mai andato. No, io andavo proprio lì a Lido, a Lido di Platone, a Lido quello principale c'era rotto. Anche perché c'è la piscina, insomma, è molto bello. E lì a Lido di Punta Bianca dove c'è un lume. Quest'anno l'hanno organizzato un po' diversamente, quindi si hanno gli ombrelloni, poi c'è la terrazza che è praticamente lì sul mare dove hai la possibilità di mangiare qualcosa, e poi hanno organizzato anche per i bambini un intrattenimento per bambini, quindi c'è una piscina piccola, dei giochi e queste cose qua. Però siccome non ha un grande afflusso numerico, cioè non ha tanti posti per gli ospiti, quindi diciamo non è sovraffollato e tutto sommato si sta bene. È all'inizio e c'è meno traffico, almeno ci sembra. Interessante, va bene. Faremo un controllo, vedremo se si sta bene, perché no, si può fare anche una puntatina lì, non ci sono problemi. Sì. Ma carissimo, io mi vado a cambiare, perché tanto tra 2-3 minuti dovrebbero portarci le pizze, perché questa l'ora pattuita. Ci sentiamo più tardi, se lascio acceso, volentieri un'altra chiacchierata me la faccio. Dai, sabato, faccio stare le pizze, dai, sabato. ma non c'è solo la pizza. Ah, beh, se c'è altro, allora non metto lingua, sabato. devi mettere. Vai, ok, te malo questo falchetti, te malo. Cazzo buco, cazzo buco. Va bene, falchetto, io va bene. C'è un bravo ragazzo. Ciao. Va bene, vai, ho salato, vai allora a prepararti per affrontare questa mangiata di pizza. Se ne ho voglia già ci sentiamo dopo. Sono tutta la sera buttato qua, mi ho già le palle piene. Faccio che me ne scambi dopo cena a farmi 6 Gianni e Giuseppe. Andiamo a farci una chiacchierata in Piazza dei Cini, che c'è più fresco. Sì. Ok, dai, vado, ci sentiamo più tardi eventualmente. Buon proseguimento a tutti, buona chiacchierata, salutoni anche a quelli che ci ascoltano. Riprendi Falche, forse è rientrato anche Fabrizio. Ciao a tutti, ciao, a dopo. Ciao, sabato. Buona pizza con tutto, dai. Ci si ascolta, dai. Avanti. Ciao, sabato, ci sentiamo. Aspetto, cambiando microfono, questo 48 lo metto su adetta. E il yes, positivo. Fabrizio non destano. Oh signore, mi tu di mezza qua. Salutate. Ci abbiamo caldo noi. pianti loro, che mamma mia. Positivo. Niente. Io mi sono creato. Sono andato a Se vuole fare, andiamo a fare. ascolto da Stefano, che ha fatto novembre, no, si è fatta la mattina e la sera la preparo il pasto. Io Giuseppe Fara, ehi, sto arrivando già. Ti sento però, c'è, come si dice, tiri un po' di QRM, dunque un mezzo mischio, poi già riesco a tirarti fuori. Siamo dopo un tanto tempo. E ogni tanto, no, ma comunque sono sempre all'ascolto, non c'è problema. Già, basta entrare. Quello sì, ma in questi giorni, da, non è il momento, dunque, no. Non è argomenti, ecco, tutto lì, già fa piacere ogni tanto, puoi rientrare. No, ma già non l'abbandono, tranquillo. E beh, non c'è nessuno, non sono entrato nessuno ancora. Sono appena andati, se ne sono. Ah, se ne sono andati sicuramente a mangiare, anche io tra 5 minuti, e poi riattacco se c'è qualcuno. A capo. Se ci abbiamo in FM. Non ti ho copiato, Bombolo, scusa, cos'hai detto? Detto se c'è difficoltà a copiarmi. Se abbiamo in FM. Via. Capito. Adesso in FM di questo apparato, cioè che secondo te non va bene? Ah, è come modulazione, vabbè, giustamente cambia una con l'altra. Bene, però in AM già va bene, sì, cosa ne pensi? Allora, guarda, per il 68 io in DPP non ce l'ho, questo ce l'ho, hai notato, guarda. Beh, io stesso sto usando il Galaxy con le BP più 4, aspetta che cambio. Questo sto usando il 68 col microfono amplificato, col microfono originale. È più forte, è vero. E invece quella te la senti più giusto? Ah, ecco, può darsi che avrei dovuto regolare il microfono da tavolo. Adesso in AM lo metto sempre a 2,5, l'MB più 4, sì, ma che parte da 0 sino a 10. Così che l'FM, con la spada, questa prova, può regolare il microfono sino ad avere una posizione. So regolarlo a 7, 8, lo sto usando come in AM, sia in FM, quando uso il Galaxy a 2,5 nell'attacca come regolazione. No, ha sempre tutto bene. Questi giorni qualcosa di nuovo, di bello hai combinato. E tu lavorando questo caldo simpatico di questi giorni? Stai venendo anche i bici. Bello problema, un pochettino più a riposo con fronte ai mesi passati alla fine. Proprio ragione, vabbè, liscia. E zio Falchetto, un po' di compagnia appena, non sentiti così. Ah, sono usciti. Già sono sempre dipendenti, sicuramente questa qua è di cosa, dai. Pura, ma non è quello meno. fino a te. Bello pulito. Tonello, non l'avevo mai sentito così. Altre volte esco male, dimmi anche tu la tua. Non ti dico un fico secco. No, che ne so, come ci... No, in AM chiaramente c'è un po' di disturbo e non è così pulita. Sì, veramente bello pulito, pulito pulito. Grazie, no, io poco fa stavo facendo un piccolo esperimento, sai. Le prove veloci veloci, già sono abbastanza sbrigativo. Stavo provando il Galaxy in FM e diciamo la ritenzione di Bombo dice che non è tanto piacevole. Adesso sto usando il 68 col microfono originale, l'Aran 68, e se nel Galaxy uso l'MB+4 e c'è che è molto meglio questa modulazione. So che dire, posso solo dire che ti sento veramente bene, l'ho pulito, pulito, per cui pulito e avanti. Abbiamo deciso di modulare in FM perché ci sentiamo meglio, hai capito? Magari da te sto arrivando anche forte fino adesso, perché magari aumenta anche il segnale, no? Quasi 9, sì, quasi 9, esattamente. Più forte è Antonello, Antonello arriva a pieno 9, 10 modulare. Sei quasi, come il LED dei 9 non me lo accendi, dai. No, sto uscendo pulito, sto uscendo con i watt, 4 watt normali dall'apparecchio e basta. L'apparecchio è... 1 fai 0.